sorrido. Non si scattano di me, né del mio dolce viso. Uso gli ultimi minuti per la mia confessione. Non mi bastano parole per spiegare. Orrore e distruzione non è per religione, no, ma per mia madre a Gaza fucilata sul portone. Per questa pace falsa, per la mia terra gialla, per il mio giovane compagno mai tornato da Ramallah. Inshallah, la giustizia è un'altra, un'altra. Un bambino, un carro armato, una pietra che si scaglia. Per l'aspetto cuore chiuso, viso coperto da un sorriso. Una kamikaze donna non si aspetta al paradiso. Per lo stesso cuore chiuso, viso coperto da un sorriso. Una kamikaze donna non si aspetta al paradiso. I passi, non posso fare passi falsi. Se mi giudichi ti sbagli, un gesto atroce calcolato nei dettagli. Persa tra insicurezze e sbagli, pochi attimi ancora avverrà la morte ad abbracciarmi. Indesso solo l'odio e la determinazione. Nelle vene la pressione cresce, vita un'illusione. Mi si chiude il cuore in una morsa. Guardo questo ultimo sole, lascio la mia ultima impronta. Sento la deflagrazione, ancora rabbia e sdegno. Le sirene, l'ambulanza, pensa a tutto ciò che ho perso. Non credo al paradiso, nell'inferno, il padre eterno. Voglio vivere in un limbo governato dal silenzio. Velo stretto, cuore chiuso, viso coperto da un sorriso. Una kamikaze donna.